Oggi celebriamo una festa che, se anche per il popolo non è molto sottolineata, però è spiritualmente molto importante: la visitazione di Maria a Elisabetta. È molto importante per tanti aspetti teologici e spirituali, che altri sapranno dire meglio di me, perché ad esempio è l'incontro tra Giovanni e Gesù, il più grande del Primo Testamento e colui che fonda il Nuovo Testamento. Poi ci sono due donne, sarebbe interessante leggere anche il Vangelo al femminile, sarebbe molto interessante. Io però voglio sottolineare due aspetti che magari passano un po' in ombra, ma per me, che voglio essere uno che predica per il popolo, credo che siano molto importanti. Il primo aspetto è che Maria esce da casa sua e va a fare tante decine di chilometri. Ma come? Maria, che non dice una parola quasi nel Vangelo, se non quando si rivolge a Gesù a Cana. Maria, che è appena stata visitata dall'angelo e conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Maria esce e va. E questo è un grande tema che poi dopo riprendo. Non possiamo stare chiusi nella nostra ricchezza. Maria non l'ha fatto. E poi Maria condivide le esperienze che fa e dice questo meraviglioso cantico del Magnificat. Io vorrei riprendere per noi, per la nostra vita quotidiana, questi due verbi: uscire e condividere. Cari cristiani che mi ascoltate, vi invito a fare un serio esame di coscienza. Tu sei capace di uscire da casa tua per andare ad annunciare agli altri? Ah, Madonna, non son capace di annunciare il Vangelo. Annuncia la tua umanità, annuncia la tua fede. Sei capace di uscire, ma non per fare il gazzettino. Ciascuno di voi, carissimi, faccia l'esame di coscienza. Vado a trovare gli ammalati, io che sono ancora relativamente giovane. Vado non a dire alle persone: oi, se hai bisogno chiamami, Io vi invito a diffidare delle persone che ti dicono: se hai bisogno chiamami. Tu dovresti andare a dire: sono qui, hai bisogno? È un po' di giorni che non ti vedevo, posso darti una mano? Bisogna intervenire, amici. Ma dobbiamo uscire, fate un bel esame di coscienza. Altrimenti poi vediamo della gente anziana che dice: nessuno viene a trovarmi. E già, ma tu andavi? Il secondo verbo, condividere. Condividere le esperienze dello spirito, non condividere le chiacchiere, non condividere, dico una battuta ma che è vera, quante volte le donne parlano male dei loro mariti, ma parlano bene dei loro figli. No, non devi andare a condividere, devi andare a condividere la tua fede. Ma come si fa? E come dice il Vangelo, che non devi darle le perle ai porci e non gettare le cose sante ai cani, vuol dire: tu, quando doni qualcosa di prezioso della tua anima, devi sapere bene a chi lo doni. Devi donarlo a un fratello o una sorella spirituali. E allora anch'io, siccome lo dico a voi, voglio donarvi anch'io un'esperienza che ho vissuto ieri. E mi sono preso una giornata di riposo e sono andato qui in una valle bergamasca a visitare un bel santuario, molto bello, a cui molta gente va, il santuario della Madonna delle Grazie ad Ardesio. Ora, mentre percorrevo le vie del centro per arrivarci, c'era il mercato. Allora passo via vicino a un ambulante che vendeva frutta e verdura e lui mi fa: «Reverendo, facciamo un patto noi due». «Dimmi». Intanto prende due manate di ciliegie, le mette in un sacchetto di carta, me le consegna e dice: «Dica qualche preghiera per due donne quarantenni che sono ammalate gravi». E io ho detto: «Guarda, sto andando in santuario, pregherò proprio per loro». E intanto riflettevo e dicevo: «Che bello però nei paesi, che un ambulante così ha la faccia di chiedere, ma che bello anche che un sacerdote si faccia sempre riconoscere. Io ci tengo che gli altri mi riconoscano come prete, perché poi capitano esperienze come queste». Allora vado in santuario, faccio una bella preghiera che poi ho mandato anche a qualcuno di voi con un messaggio di WhatsApp. L'ho mandata a 350 persone e prima di sera ho avuto più di 300 risposte sul mio cellulare. Dopo che sono stato lì a lungo in santuario, vengo via, passo ancora dentro il mercato. Vado da quest'uomo e gli dico: «Senta, se lei mi dà i cellulari di queste donne, io mando questo messaggio a loro». E lui, guardando la moglie, dice: «No, mia moglie non vuole che tengo i cellulari delle mie clienti». E la donna rideva sottecchi, no? Allora dice: «Guarda, allora io lo mando a te e tu, quando verranno a far la spesa al tuo banco, glielo dirai». È una bella esperienza, amici, andare per un mercato e annunciare Gesù. Utilizzare WhatsApp non per sciocchezze, ma per annunciare il Vangelo. Coraggio, se avete fratelli e sorelle spirituali, decidetevi a condividere le esperienze spirituali.